c'è un cielo da scrutare. Guarda lassù che cielo. Uno sguardo che non può ingannare. Oltre i grattacieli e le nuvole si intravede uno spazio blu. Oltre l'infinito e la fantasia, dove puoi guardare tu? Non si costruirebbe se non ci fosse davanti a tutto il proprio interesse. Si potrebbe riqualificare ciò che si va a demolire, palazzi abbandonati, interrotti da fili spinati. C'era un'industria, ne è rimasta la memoria. Mattoncini su mattoncini, il suolo è a pezzettini, l'uomo poco si riproduce, l'imperativo è togliere la luce. Tra un palazzo ed un altro sembra di sentir soffiare l'odore del sugo. Che delusione, non buttare nulla fa bene all'ambiente, costruire fa bene per qualche mente. La terra si riduce, questo nuovo